Per favore, per la figlia dell'amore, chi la canterà, chi la suonerà, sarà socio fondatore, e il diploma avrà della società degli amici del lavoro. Su, su, su, cantiamo in do, con potenza al do. Una marcia in fa, una marcia in fa maggiore, una marcia per favore, per la figlia dell'amore. Nessuno può e non conviene un cuore incatenare. L'amore va, l'amore viene e tutto può cambiare, ma la marcia dell'amore noi avremo sempre in cuore. Una marcia in fa, una marcia in fa, una marcia in fa maggiore, una marcia per favore, per la figlia dell'amore. Chi la canterà, chi la suonerà, sarà socio fondatore, il diploma avrà della società degli amici del lavoro. Su, su, su, cantiamo in coro, con potenza al coro. Una marcia in fa, una marcia in fa, una marcia in fa maggio, una marcia per favore, per Sanremo. Suona una marcia in fa.